vai andare tu che sei abituato. Vieni, vieni. Ma sì, ma uguale. No, cazzo, no. Ce ne frega. Ronny. Signori! Buonasera! Buonasera! Buonasera! Benvenuti a Brutte Persone, benvenuti all'Exalge. Io sono qui con Andrea, oh no, non sei tu, non no, sei no, tu, no. Non c'è Andrea Fadenti, abbiamo chiamato Alberto Vitale. Sì. Persino Andrea non vuole più presentare questa serata. Facciamo troppo schifo anche per lui. Assolutamente. Ora, premesse della serata, quanti sono qui la prima volta, per la prima volta qui? Minchia. Questa tavolata qui? Prima volta. Perfetto, perfetto. Chiederemo a fine serata quanti di voi non vogliono più tornare. Giusto. Noi stasera vogliamo fare la serata più brutta mai vista in un sappiatelo. Locale. E abbiamo buone possibilità abbiamo di riuscirci. Ottime possibilità, non essendoci Fadenti, abbiamo una condizione addirittura a tre, perché ci siamo io, Alberto Vitale e la Valletta! Enrico Valletta. Veronica! Assolutamente. Sì, sì, sì, sì, sì. Comunque sarà meglio di noi, tra l'altro. Hai visto il talent scout che è già andato a caccia di talenti? La Valletta è così. Vedi? Valletta itinerante. Vedi qualche faccia buona? Igor, solo Igor? Igor non mi dispiace. Sai che io avrei puntato di più sul signore. Igor, ti possiamo mettere in scaletta? Il signore sarà un po' coetaneo. Ma si vede che è un ragazzino. Ma io li vedo bene come coppia sul palco. Cioè lui è quello brillante e l'altro fa quello dall'humor british. Volete entrare nella comicità? Volete fare un pezzo stasera insieme? Allora dillo. Stasera ci sarà il cagarometro. Ah no, non volevo. Ah, non quello? Allora vai te. La dica il prima lei. Lo spieghiamo dopo il cagarometro allora. Vai, vai, vai Harry, vai. Non avevo idea di cosa... Perfetto così. Allora, signori, il è stato un onore e un privilegio. Ci vediamo la settimana prossima. Ciao. No. Grazie. No, in realtà siamo ancora in grado di peggiorare. Vogliamo dirlo, Valerio. Faremo il cagarometro, quindi stasera c'è un premio speciale per il comico che farà più cagare in assoluto. Alla fine di ogni esibizione noi chiederemo la vostra opinione. La vostra opinione voi la esprimerete in insulti. Quanti più insulti prenderà il bastardo che non ha fatto ridere, quanto più lui avrà fatto cagare, vincerà un cocktail offerto dal baffo, quel bastardo. Sì. Che roba cinica. Abbiamo anche uno strumento per provare. Vai. Questo è un comico che va abbastanza bene. Ok. Questo è un comico che va male. Questo fa ridere, va male. Sì. Siamo pronti. Nostro obiettivo è che dopo stasera non ci saranno mai più serate di qualsiasi forma d'arte all'Exalge. Parlate male di questo locale. Stiamo lavorando già bene. Sì. Io lavoro senza microfono. Hai fatto il teatro. Tu sei la Valletta, tu sei la voce di diaframma. Sei qua per la bellezza tu, non per la voce, quindi. Lei dirà di sì. Vuoi fargli vedere gli addominali? No, dopo magari. Okay. Ho bevuto solo un bicchiere, dopo sicuramente. Partiamo col primo, io mi sono rotto i coglioni. Vogliamo partire col primo, tu lo sai. Sì. È lui. Eh? Ci ha promesso di deliziarci anche con un pezzo al pianoforte, pur non sapendo suonare il pianoforte, quindi ha detto che ha portato un pezzo di 3 anni fa che 3 anni fa faceva già cagare. E adesso è pure datato. Ci ha tenuto a dire che non l'ha migliorato. No. Quindi resterà un pezzo che fa cagare. L'ha migliorato. Ed era un pezzo già vecchio ai tempi. Parlava di quanto è buffo stare su Facebook. Mi raccomando, non abbiate pietà. Se il pezzo vi fa cagare, per la sua gioia fateglielo notare, perché vincerete un bicchiere di vino rosso. Un bel applauso. Offerto al baffo. Un bel applauso per quel bastardo di Emanuele Laghi! Che bello fare cagare! No. Mi piace di più questo microfono. Sì, stasera bisogna essere proprio brutte persone, brutti pezzi e soprattutto essere persone malvagie. Io l'ho già detto l'altra volta, io sono un insegnante di matematica, che è la cosa migliore che mi sia capitata, perché è come entrare nel lato oscuro della forza. Ti senti come Voldemort. Finalmente puoi far piangere le persone. La gente mi temeva, cioè insomma l'unico periodo in cui la gente mi ha temuto è stato all'inizio del coronavirus perché pensavano che fossi il paziente zero. Ma l'inverno è un periodo meraviglioso per essere brutte persone, perché quando noi siamo a casa, dentro al calduccio, facendo bruciare i mobili, perché ovviamente non possiamo permetterci il gas, scroccando la connessione a internet e scroccando Netflix, perché a questo serve la mia laurea, quando fuori piove, cosa c'è? Qual è il più grande guilty pleasure, il più grande piacere che possiamo avere? Guilty pleasure, sì, anche con l'inglese, yeah. Qual è il più grande vostro piacere che avete? No, tipo la classica serata con la pioggia battente fuori? Bagno caldo? No, un piacere più sadico. Delivery. Anche lui lo fa! Quando sei a casa non c'è niente di meglio che chiamare uno degli angeli delle consegne a domicilio. E quindi io vorrei dedicare un pensiero a tutti coloro che lavorano per Just Eat, per Glovo, per Sudora e tutte quelle altre app che hanno riportato i diritti dei lavoratori all'inizio del Novecento. Tu suona. Sono in luce? E allora il maestro Laghi. È dai tempi degli dei dell'Olimpo, dei signori della guerra e dei re che spadroneggiavano su una terra in tumulto. Che i microfoni arrivavano sul palco in questo modo. E il popolo e l'umanità aveva il bisogno di eroi che ritornassero a dare all'umanità, appunto, il privilegio di stare a casa e non fare un cazzo. Forgiati dal fuoco di mille battaglie, di mille semafori, dal PM10. Gli angeli delle consegne a domicilio ogni giorno sfidano per noi le buche, il pavè e le paghe da fame. Sì, questa introduzione è stata copiata da Xena, principessa lesbo guerriera. Perché per me chi fa le consegne a domicilio è un essere mitologico, metà uomo e metà bicicletta, che come dei moderni Apollo trascinano il carro della soia per portarci una pizza margherita al retrogusto di kebab e una Moretti da 66, anch'essa al retrogusto di kebab. Io, quando ordino a domicilio, nel mio monolocale all'ottavo piano senza ascensore, e sento arrivare il fattorino, ovviamente non scendo, ma lo attendo sulla porta e appena arriva... Ah no, quella è un'altra app, che però consegna solo salsicce. E appena arriva la pizza, io la prendo, lo saluto, lo ringrazio... No, non lo ringrazio, e ciao, e non lo pago. E perché? Perché è stato tutto già pagato con la app. Il pizzaiolo parla con la macchina, il cliente parla con la macchina e in questo modo non c'è nessun problema con i resti, non devo toccare altre persone e soprattutto non c'è nessun rischio che io ti dia la mancia. Ormai tutti parlano con le macchine, cioè l'esercente con la macchina, il cliente con la macchina e nell'era della comunicazione essere autistici non è mai stato così facile. Però, è triste la nazione che ha bisogno di eroi e a volte gli eroi cadono, a volte abbiamo degli angeli caduti, a volte le nostre pizze ai quattro formaggi si tingono di rosso e può succedere. C'è stato un giorno che io e un mio amico abbiamo lavorato tutto il pomeriggio molto intensamente, e a un certo punto ci è venuta fame, fuori diluviava e abbiamo deciso appunto di chiamare una pizza a domicilio. Però dopo 2 ore non si è mostrato nessuno. A quel punto abbiamo detto, vabbè, ha smesso di piovere, la pizzeria è a 300 metri, usciamo. E lì ci si è parata davanti una scena terribile, allucinante. A parte le postanghere c'erano lampeggianti, persone attorno ad un lenzuolo steso per terra e uno dei nostri angeli con le nostre pizze in mano, interrogato dalla polizia. Un banale incidente. Sapete come funziona, no? Piove, freni, aquaplaning, muori. Succede. La persona che sta ridendo è una brutta persona, eh? Cioè, sta ridendo di un fatto drammatico che ha segnato... No, non ha segnato un cazzo della mia vita. Sarebbe bello. Allora, cos'era successo? In pratica, vabbè, il nostro fattorino aveva investito una vecchia... E quindi la nostra pizza ormai era fredda, meno fredda della morta, comunque vabbè. Da quel giorno per me Just It non è stato più Just It, ma ormai per me è Just Dead, ed è ormai la mia applicazione preferita insieme a Tamazon, l'applicazione che ogni volta che la usi uccidi un diritto dei lavoratori. Fatevi un applauso, continuate ad ordinare. Perché, cioè, quando tu ordini online, quando tu ordini con Deliveroo, ma lo senti quel piacere da colonialista? Cioè, è proprio una cosa che ti prende dentro. E quindi, per continuare ad essere brutte persone, continuate a fare, continuate ad ordinare, continuate a far cagare. Io vado a continuare a bere la bottiglia di vino che ho già iniziato. Vi saluto, vi ricordo, io sono Emanuele Laghi. Se volete mi trovate su Facebook, vi aspetto per un pollicione, su Instagram per un bel cuoricione o nel bagno per un bel soffocone. Grazie! Signori, è arrivato il momento del cagarometro! Allora, è morcio! Apprezziamo anche che ha parlato di morti, che è sempre un argomento che gela il pubblico, quindi questo vale dei punti aggiuntivi. Allora, 3, 2, 1, cagarometro, insulti, fischi, quello che volete. 3, 2, 1. Buono, buono. Bella, bella. Buono. Buono, buono. Bravo Manuele, bravo. Hai fatto cagare, bravo. Valletta, quant'è il punteggio? Valletta, quant'è il punteggio? Quanto siamo? In negativo, in negativo siamo. Quindi sotto? È un meno 12. Meno 12. Meno 12 è comunque una buona partenza. Orecchio. Meno 12. Pensiamo di poter superare questo valore. Sì, peggioreremo sicuro, peggioreremo è solo sicuro. Prima, è solo il primo. Fate conto che era pure emozionato, ecco. E che era uno dei migliori. Segnatevi. Quindi allora, andiamo al secondo. No, sì, io ho alzato volevi dire il micro... due ballette? Volevo parlare così, ma in realtà abbiamo alzato il microfono. È giusto, hai alzata l'asta. Per giusto un motivo. Allora, adesso è un momento, devo dire, un po' critico, vi dico la verità. Perché purtroppo in passato, per chi è venuto in altre serate, l'artista che si esibisce adesso, in passato ha fatto ridere. Quindi abbiamo un po' paura che il cagarometro stasera, in questo pezzo, possa non dare i risultati sperati. Io non la volevo in scaletta. È un pezzo nuovo, quindi questo ci può aiutare a fare schifo, quindi speriamo. Speriamo ci deluda tutti. Vogliamo presentare la quota rosa di stasera. Signore e signori, fate un grosso applauso per quello schifo umano di Silvia Conti. Grande. Grazie, vorrei ringraziare la conduzione ma soprattutto tranquillizzarli perché comunque è un pezzo che ho scritto ieri e che ora leggo a voce alta per la prima volta. Possiamo farcela. Non sa neanche memoria, quindi questi sono punti aggiuntivi. No, ecco perché chi in passato mi aveva applaudita in questo posto mi aveva conosciuta come brillante stand-up comedian, ma stasera io sono una poetessa di un certo rilievo e ho deciso di sfidare il genere più complesso che è quello della poesia d'amore. Quindi queste sono rime romantiche e si intitolano Sanremo 2023. oppure Sanremo 2023, come direbbe Amadeus. Ti voglio guardare, la notte, per ore, finché non mi stanco, fin tanto che esisti. Ti voglio guardare da dopo la cena finché non stramazzo. Ti voglio guardare in silenzio. E invece mi tocca sbraitare, agitarmi, alle tende aggrapparmi, perché un deficiente, che quando ho sposato sembrava brillante e direi tollerante, mi dice: cretina, se accendo Rai 1 già un'ora prima del telegiornale per non bucare l'inizio tuo sacro, che spesso mi annoia. Se parli di noia, perché o mia sposa ti ostini a guardarlo? Domanda al marito ben poco istruito e poco cosciente delle mani che addosso gli metto se ancora interrompe di te la visione, delizioso carrozzone. Ti voglio guardare e non perdermi nulla, per questo mi vanto di aver tutto pronto. A me attorno, sul divano, ho predisposto l'acqua che in circa 6 ore converrebbe bevessi, altrimenti si muore. Le patatine più gusto San Carlo, che in un mondo più giusto avrei provveduto a portare all'altare in luogo di quell'uomo, giacché io le adoro e loro non parlano, scrocchiano solo. E poi, sul divano, la coperta di lana e del telefono per la ricarica o il cavo. Figli, mi pare di non averne messi al mondo, ma spero che in caso si siano tolti di torno. Il cane è addestrato, conosce quel jingle che il festival ferma e dopo di cui pisciare può lui. Per i miei bisogni, invece, l'estetica vintage di padella e di pitale avevo considerato per non dovermi mai alzare dal divano. Ma forse fino al bagno, 2 metri più avanti, se alzo il volume mi posso spostare e così di tanto in tanto le gambe rianimare. Perché ti voglio guardare. E non importa se ai miei occhi innocenti, vecchiacci decadenti come Albano e Morandi, Di Capri e Gino Paoli, qualche pue Ranieri mostrare ritieni. Non mi turba se per 2 sere Chiara Ferragni dovrò vedere e temo sentire straziarsi di dolore seguendo su un gobbo le righe del dramma di lei in quanto donna. Che cruccio dovere con lei empatizzare, che sogno invece sarebbe se il suo talento esplodesse allorché messo alla prova in una televendita vera, una di quelle alla Mastrota. Se vuoi la televendita e hai il telecomando, perché sul canale 32 non ti sposti, Dio santo? Domanda quello sciocco che ancora non capisce che se ho scelto l'ammiraglia è perché voglio soffrire. No, Sanremo, scusami, ti giuro che non soffro, neppure se mi esponi all'ospite straniero che ride in imbarazzo, agli attori delle fiction coi buoni sentimenti, neppure al caso umano di sovente menomato, o al comico di turno che porta un pezzo orrendo. È brutto dare targhe sui comici tremendi, ma lo dico dall'ex alge ed è come avere un master. Ti voglio guardare. Anche se alle 2 di notte dalla stanza da letto un rantolo si alza. Sei ancora sveglia? Il coniuge domanda. A scanso di divorzio, a te Sanremo mento. Ti giuro, sta finendo. Io so che non è vero. La gara ancora in furia, ma spegnere non posso. Sono in attesa dello spot, la mia Liguria. Da sempre nella storia i soldi spesi peggio per attirar turisti nella mia terra ostile, cantata da Montale che infante un dì mi vide e ove nacque il mio disagio, quello che si esprime con Sanremo, io ti amo. Ci tengo a segnalare al pubblico che questa serata è in calendario anche venerdì prossimo, che è la serata delle cover, quindi non disturbatevi, si capisce che si sta tutti a casa. Dovete dircelo voi. Finisce finalmente sta serata di merda. Il nostro obiettivo è non finire la scaletta stasera, perché tutta la gente se ne va al terzo comico, cioè al prossimo. Quindi al prossimo comico noi abbiamo la bomba. Calcoliamo. Per regolarità abbiamo bisogno del vostro voto in negativo. Quindi valutate il pezzo di adesso. Ma il tuo Geggino cosa dice? Vediamo. I tempi che ha. Sì, era in tasca. Un professionista. Buono, un corto, buono. Un corto. Molto buono, sì, sì, molto sì. Buono. Sentiamo il pubblico. Pubblico, vogliamo fare 3, 2, 1, prego. Aia, aia, questo vuol dire che il pezzo è piaciuto, te. Aia. Silvia. Aia, questo niente. È coltellato. Niente, niente, Silvia, bicchieri. Silvia, sei una delusione. Te lo sai che io ero contro alle donne su questo palco e te mi hai deluso. Silvia, per colpa tua il pubblico potrebbe tornare e non è quello che vogliamo, lo sai bene. Ma per fortuna adesso... Abbiamo l'arma segreta. Vogliamo spiegare un attimo la coppia che arriva adesso. C'è una coppia? No, la coppia nel senso sono due artisti due consecutivi. Singoli. Due simboli della comicità dell'Exalge. Rientrano nella famosa Academy di Valerio Airò. Esatto. Vuoi dare una due parole sulla tua Academy? Allora, questa è un'Academy che forma grandissimi comici che puntano a far cagare. Io ho visto loro, ho notato il talento, ho detto salite sul palco con me, sì. Farete grandi cose. Ma vogliono salire insieme? No, no, no. No. Volete no, fare no. Il duo? No, no, no, perché in due è più non pesante. Se lo fanno separati è più lunga, quindi è più pesante secondo me, per il pubblico. Secondo me, uno dietro l'altro sì, facciamo sì, un sì, più sì, bel sì, effetto. Sì, sì. Allora, incominciamo subito forti con questo duo dell'Academy. Quindi chi è venuto qua in passato sa che cosa sta per arrivare. È un onore e un privilegio presentarvi il primo membro dell'Academy, il cavallo di battaglia, il cavallo di razza, Romualdo Grieco! Bravo! Prego, Romy. Allora. Vuoi usare due microfoni, tipo Kim Jong-un? No, grazie. Va bene, io uno... Io non ho idee, li butto lì, eh. Uno basta, l'altro il cazzo. E stiamo subito partiti fuori. Va bene. Forse riuscirò a prenderlo, forse no, e forse se non riesco è meglio per voi. Allora, buonasera a tutti, io sono Romualdo Grieco, c'è già qualcuno che sta mandando messaggi del tipo vi prego venitemi a salvare, fate bene. Nonostante sia una serata in cui, insomma, puntiamo a far più cagare possibile, io mi sto cagando sotto, quindi cagherete voi, cago io, quindi, nel senso, una merda. Allora, incominciamo. Allora, ho 26 anni, sono single e quindi... E quindi, signori, forse non è il pubblico adatto, ma farò finta che siate... È l'unico che abbiamo, Romualdo, quindi... No, allora... insomma, sono aperte le candidature per una relazione con me, quindi nel senso potete incominciare a scrivere i vostri curriculum relazionali e mandarli via mail a romualdo@hotmail.it. Mandarmeli su Instagram a void reaching oppure non lo so, potete darmeli dopo prima che scappi via o potete trovarmi al bagno nel senso l'offerta del sopocone di Emanuele Laghi va bene anche con me eventualmente posso faccio anche richiesta per te nel caso. Sto... Serata, cagare, è vieni. Insomma, quindi, ma giustamente prima che voi possiate mandarvi i vostri curriculum, vi leggerò le mie referenze, ossia la mia bio di Tinder. Giustamente, quindi vi leggerò la mia bio di Tinder per le mie referenze. Allora, 1,78 m di sogni disneyani e playlist metalhead sdolcinate, attratto dall'arte, dai libri e dalle grandi saghe. Qua mi stavo riferendo alle grandi saghe tipo Star Wars, Harry Potter, Il Signore degli Anelli, però in realtà mi riferivo anche a grandi seghe, però... Ecco. Potete fare di meglio? Cazzo, ridete, porca puttana! Grazie. Allora, è per un altro pezzo, però sappiate che io ho un ego smisurato. Quando sono qua bisogna ridere. Io voglio la vostra attenzione, la pretendo, altrimenti... Non ridete l'ego, di Roberto. Ecco, se no mi metto a piangere e vado ad impiccarmi. Se invece riuscirete a soddisfare il mio ego, elicottererò dalla gioia. Bene. Notate quante finezze in questo pezzo. Già. E per continuare, quindi attratto dall'arte, dai libri e dalle grandi saghe, e per citare gli Indies Moment, che sono una band metal con come cantante Maria Brink, che è praticamente la Lady Gaga del metal, quindi potete immaginare la finezza di queste parole. I can't deny I die without this, make me feel like a god, music, love and sex. Se mi offrite una cioccolata avrete molti punti a favore. Allora, il resto potete provare a scoprirlo. Meglio di no. Allora, partendo dal fondo, analizzando diciamo questa bellissima bio, possiamo dire che sono povero come la merda. La cioccolata me la dovete offrire voi. Prima cosa. Cose importanti. Poi, 1,78 m di sogni disneyani. Questo potrebbe sembrare una cosa carina. In realtà è un monito. Perché, essendo cresciuto a pane e Disney, diciamo che il mio livello di aspettativa è parecchio alto. Diciamo che mi aspetto di uscire con principesse. Io qua non vedo principesse, vedo principalmente piselli, e io mi aspetto sempre principesse sul mio pisello, ma niente, come ho detto, le mie aspettative sono sempre molto alte, colpa di Disney e colpa di mia madre che appunto mi ha cresciuto a pane Disney e mi ha cresciuto facendomi credere di essere un principe, in realtà, e voleva differenziarmi dagli altri uomini che lei definisce diciamo tutte merde e grandissimi stronzi. Ha fallito miseramente, visto che anch'io sono esattamente come tutti gli altri uomini, anch'io sono una merda. E poteva anche capirlo, insomma, da quando ero piccolo. Dovete sapere che io ho incominciato a camminare a 2 anni, ma io non ho incominciato a camminare, io ho incominciato a correre dietro la cugina del mio miglior amico. Lei aveva tipo 4-5 anni, aveva i capelli rossi, e io già da istinto maniaco, giustamente rossa di capelli, golosa di uccelli, io lo percepivo, e quindi da gattonavo e mi sono messo a correre. E racconta mia madre che io spesso scappavo dal passeggino, mi slegavo e andavo a schiantarmi sui culi delle povere ragazze. Quindi già da bambino ero un cazzo di maniaco da sbattere in carcere. Adesso non è cambiata la solfa. E quindi arriviamo all'analisi, diciamo, della citazione. Cos'è che mi fa sentire come un dio? Perché questo significa make me feel like a god. Mi fa sentire come un dio music, quindi la musica, e io sono metallaro e porto sempre le cuffie, quindi significa che se chiamate aiuto io non vi sentirò. Ho un udito di merda, tra l'altro, a furia di ascoltare musica metal in cuffia, e quindi non vi sentirò se chiamate aiuto. Al massimo, se proprio dovessi sentirvi, caso molto raro, è probabile che col vostro assalitore potrei concordare per un frisam, solo se l'assalitore è uno gnocco a Madonna, perché giustamente se devo farmi spanare il culo, almeno, insomma, che sia una bella presenza. Poi alla fine, love, quindi amore, cercando di non far morire il povero Enrico. salvare. Perfetto. Quindi, ciò altro che vi fa sentire come un dio è amore. Come avrete capito, ho bisogno di affetto, quindi amatemi, porca puttana, grazie. E per finire, sex, quindi sesso, se non l'aveste capito, sono un cazzo di morto di figa, quindi vorrei scopare una volta tanto. E quindi, niente. Allora, vi offro per concludere una prospettiva, diciamo, di un'eventuale relazione con me. Che, prendete appunto. Esatto, che si suddivide in quattro fasi. La prima è, allora, io sono molto timido, quindi quando mi approccio a una ragazza tendo a cercare di non arrecare, disturbo, quindi cerco sempre di non creare fastidio. Quindi si capisce questo, come mai non scopo mai per un cazzo. Però nel caso supero la prima fase, diciamo la fase della timidezza e i miei messaggi ogni giorno alla fine si fanno sentire. La seconda fase è io giustamente non scopo mai, quindi la ragazza in questione sarebbe la mia principessa, quindi la metterei al centro del mio mondo, la farei sentire praticamente una regina. E sono abbastanza bravo in questo, diciamo. Non ho solo bisogno che mi accarezzino il mio ego, ma sono anche molto bravo ad accarezzare l'ego delle altre persone. Quindi, nel senso. Poi si passa alla terza fase, che è questa. Sì. Sì. Dai! Implorami di venirti in faccia, puttana! Ok? Questa è la terza fase. E poi c'è la quarta fase, in cui di solito vengo lasciato perché alla fine la ragazza in questione scopre che mi faccio valutare il cazzo dalle modelle su OnlyFans, e quindi vengo lasciato. Quindi, come avete capito, sono un perfetto partner per una relazione a lungo termine. Aspetto i vostri curriculum e non lo so, foto di cazzi in chat, non lo so, foto di fighe, foto di tette. Molto bene, a questo punto vado ad impiccarmi e vi saluto. Bravo! Ragazzi, Romualdo è l'unico che ha creato finalmente attenzione, un vero principe. Un bel respiro, c'era una bella attenzione. Posso dire qualche qualità? Ha unito, direi, tutte le caratteristiche migliori. Lunghezza del pezzo infinito. Parolacce gratuite. Offese al pubblico. Ma smettila di fare il bacchettone! Lo sto aiutando per il voto. Signore, abbiamo trovato un match. La biondina là in fondo. È interessata? Potrebbe rovinargli il pezzo questo, Ha espresso il suo interesse! E allora, secondo me, non solo stasera è l'ultima serata dell'ex Alge, ma ci parte anche una bella denuncia. Era ora! Noi puntavamo a questo, se questo era necessario per chiudere il locale. Chiamiamo il merdometro, com'è che si chiama? Facciamo il cagarometro! 3, 2, 1. Non è ancora ai livelli di Laghi. Vediamo, giudice. Quant'è il punteggio? Non è ai livelli di Laghi ancora. Laghi lo hanno insultato di più, Quindi il numero meno diciamo che questo è un 8. Un 8 in positivo addirittura, sopra lo 0. Mica. Aspetta, devo valutare. 7-8. 7-8. Silvia era 12, dai. Io vi ricordo Manuele era meno 12. Meno 8. Va bene. Buono. Andremo a peggiorare, buono, signori. Buono. Promesso, peccato, andremo a peggiorare. Ecco le prime persone che se ne vanno. Buono. Il primo risultato di questa serata. Ah no, ma dai. Va bene. Allora, ubriacarsi. È un buon segnale. Fanno pure soldi, bastardi. Sì. Il nostro obiettivo è chiuderlo sto posto. Ma io ne ho fatte in serate brutte. Sì, ma come sì, questa? Mamma mia. Ci stiamo impegnando. Stiamo andando alla grande, signori. Allora. Un sogno che si avvera. E adesso facciamo la doppietta. Pam. Allora, sì, continuiamo con l'Academy. Visto il successo del primo personaggio dell'Academy, vorremmo continuare. Il secondo dell'Academy purtroppo pecca per assenza di volgarità, devo dire. È vero. Però è un gioiellino. È comunque un gioiellino. Però sì. Fuori dal palco gli dice, quindi potremmo iniziare a traviarlo. Voi che stiamo qua o da solo? Come stiamo pure? Perfetto. Qualcuno la biondina. No? Biondina! No, la biondina no. No, niente, è finita l'offerta. Allora, continuiamo con l'Academy. Academy, allora lui è un imitatore. Imitatore, un uomo dalle mille qualità. Un umorista. Sì. Signore e signori, fate un grossissimo applauso per Antonio José Dante. Mi raccomando, la risata è contagiosa. È anche elegante, è anche un elegantone. Più o meno. E ho anche la risata contagiosa, quindi. Come Joker. Joker nel film Joker voleva fare il comico, era la sua aspirazione, era, no? Stai un po' spoilerando il film. No, aveva detto. Vuoi far finire? Aveva detto, quando ero piccolo dicevo che volevo fare il comico, ridevano tutti. Adesso che lo faccio non ride nessuno. E questa era l'unica battuta del personaggio che ha fatto ridere il pubblico nel film, penso un po' te. Io dico di cagate peggiori, quindi... È il momento di lanciarle allora. Sì. Cioè io non faccio come gli altri, con altri comici in TV che dicono mo racconto barzellette. No, io dico che vi dirò una serie di cazzate, così sapete a cosa andate incontro, no? Aspetta, volevo dire che di solito tu ci dici anche qual è il tuo pezzo forte, il tuo cavallo di battaglia. Sì, il cavallo di battaglia. Ci avvisi quando arriva. Il cavallo di battaglia lo dirò verso la fine. Ok. E mica se lo gioca subito. E a volte se lo gioca subito, vai tranquillo. No, più caldo, ripropongo i cavalli di battaglia 2 della volta scorsa. Sì, giustamente, perché qualcuno non l'avrà sentito. Allora, comincio con... Che cosa fa un poliziotto in aria? In un elicottero in aria, cosa fa? Fa l'agente atmosferico. Bello. Bello. Bello. Risata contagiosa. Scusa, no. Perché la sapevo già. Va bene, allora. Qual è la nazione più calda? In Africa, il Sudan, infatti sudano tanto in Sudan. Sudan, mamma mia, quanto sudan in Sudan. Anche la spiegazione ha dato, eh. Eccezionale. Eccolo! Non vedevo l'ora. Vai. Allora, il mio cavallo di battaglia. Ecco, è arrivato, quindi. Prima ho tirato fuori il telefono, era in inglese, c'era scritto setting, che vuol dire impostazioni, no? Quindi ho detto, se c'è setting... Dopo c'è otting, noving, dieching, undicing. Volete che conto fino a centing? È una minaccia e lo faccio. Va bene. Per me il tuo cavallo di battaglia era eccezionale. No, questo, adesso arriva il mio cavallo di battaglia. Ma arriva. Sì, sì. Ha una pariglia di cavalli di battaglia. Nessuno sa la ricetta segreta della Pepsi. Tranne Pep. Pep, sì. Questo era il suo vero cavallo di battaglia. Che non me lo metto, lo sapevo. Sì, alla bravo, fine, alla no, fine. Tu l'hai già visto. Ah, tu l'hai alla già fine. Visto. Ah. Arriveranno. Però ho detto, vabbè, non voglio spoilerare. Vai. No. Topolino è felice perché si fa le topoline. Paperino è felice perché si fa le paperine. Pippo è triste perché? Perché Pippo è triste? Si fa le pippe? Sì. Quindi, inimmaginabile. Anche tu. Sì. Come c'erano arrivati? Cioè, hanno delle facce semplici, ma ci arrivano. Io posso Oh, può essere. Comunque per Romualdo c'era più ascolto. Questa cosa non va bene. Vai. Come si chiama il padre di Pocahontas? Tanta Ontas. Ma... Ma vorrei anche farvi notare come le sue battute è sempre più in basso così, invece di alzare. È basso, sono io che sono troppo alto, non so. Vai. Sono basso, ecco così. Perfetto. Non sono proprio altissimo, però almeno io non mi vedo così alto, sembro un nano da giardino. Allora, io farei racconto di vita vissuta, che ci avevi anticipato. Ah, sì. Mi è venuto in mente stamattina, sto pomeriggio, che un mio insegnante delle superiori di informatica entra all'improvviso, sbattendo la porta, e fa: stronzi, deficienti, mi avete rotto i coglioni, così. Poi per attirare l'attenzione, anziché dire prego attenzione, lanciava gli evidenziatori in faccia. Sempre così, ho pennarello e evidenziatori in faccia. Una volta ha mancato il suo bersaglio ed è arrivato a quello dietro. Sempre così succedeva, voleva tirarlo a una certa persona, ma arrivava quello dietro. Alla fine quello dietro usciva con un bernocolo grande così. Giustamente. Ma questa però non è una battuta. No, è che quel mio insegnante là era un po'... A me faceva ridere. Pensate che una volta aveva quell'applicazione dell'iPad con il pappagallo che ripete tutto, no? E ha sgridato la classe dicendo: allora! E il pappagallo fa: allora! No, davvero, è successo veramente. E nel 2014, quando ero ancora alle superiori. No, sicuramente c'è il pappagallo dell'applicazione che lui ha urlato e il pappagallo ha ripetuto giustamente: allora! Così. No, è giusto. Ogni volta. Sì. E non è finita qui. Poi c'era quello, io andavo dai Salesiani, l'insegnante di laboratorio, per sgridarci, non è che ci sgridava, no, prendeva i lavori di qualcuno e gli spezzava così davanti a lui. Cioè... Come il pane di Cristo. No, che ce lo prendeva, lo buttava, lo spezzava in due, così, giusto per dare un monito, bastonare uno per educare 100. Cioè, con tutta la fatica che abbiamo fatto per fare quelle cose. Cioè. No, certo, figurati. Figurati. No, allora la prossima volta vado sulla cattedra e gli spezzo il registro, vediamo un po'. Come chi ci sente adesso dall'altra parte, mo? Ma bravo, ma questo è uno sfogo che ti tiene evidente da qua. Era un po'. Da quando ero un teenager. Ma caspita, a me è bella sta. Se qualcun... Vogliamo dire, se qualcun altro ha un blocco psicologico, può venire qua a dirlo? No, più che altro che... Aneddoti divertenti delle superiori qua, proprio. Titolo: aneddoti divertenti delle superiori. Sì, poi come se non bastasse, qualche anno dopo ho cambiato scuola e l'insegnante di laboratorio faceva le stesse medesime cose. Si è incazzato e ha spezzato tutti i lavori, ma tutti, non solo quello di uno. Tutti quanti, e fa: siete bravi solo a fare lavori di merda, così. E io mi ricordo che l'ho mandato a quel paese, così la prima volta che ho mandato a quel paese un insegnante. Antonio, perché ci stai raccontando questo? Perché per me è stato un momento di catarsi, catartico, okay, proprio. Un momento di catarsi. Bravo. Che ti ha portato... Sì, perché era da novembre che mi aveva preso di mira quell'insegnante e io a febbraio... Novembre del 2014? Sì, e a febbraio del 2015 sono scoppiato, giustamente. Oh, non cadere. Continua a cadere, ragazzi, c'è un culo che non mi tiene. No, tu verrai. Poi mi è venuto in mente un'altra freddura dell'altra volta che ha avuto successo, quindi la ripeto. Okay. È un po' interattivo, giustamente non voglio stare qui a parlare da solo, quindi interagisco un po' per quanto posso. No, ma loro sono felicissimi di interagire. Perché il bue pratica l'autolesionismo? Perché si fa del male da solo un bue? Se sapete potete rispondere. Sì, esatto, vedi? Ho visto come sono coinvolgente. Poi Paperino va da qui qua e dice: tu qua mettiti qui, tu qui mettiti qua, tu qua mettiti dove vuoi. Questo l'ho visto in un fumetto e mi è rimasto impresso, ho detto: ma devo dirlo, cioè è un crimine non condividere questa perla di Paperino con tutti. Quindi peccato, questo è un altro livello rispetto alle altre, un po' mi spiace. Sì, ce l'avevo qua un po', da un po' più me lo sono dimenticato. Il filone Disney della Disney è molto presente. La Disney, sì, devo dire che... E mo arrivano le imitazioni. È il momento delle imitazioni? Sì, quindi è il suo momento preferito, tamburi. Aspetta, ce l'ho. Ce l'ho. Ce l'hai? Vai. Risata contagiosa. Allora, il mio pezzo forte è... Adesso dovete indovinare voi. Crivio! Mi consente! Crivio! Vediamo un po' se... Chi è? Non ve lo dico, ci dovete arrivare voi. Ah, avete qualche idea? No, un altro pezzo. Di questo personaggio non devi dire, perché non hanno ancora individuato... Ah, sempre dello stesso, va bene. Non hanno individuato chi è. Va bene. Vuoi aiutarci? Sì. Dacci un aiuto. Ok, hai i capelli ingellati. Ah, ok. Si è fatto un sacco di lifting, di trattamenti estetici. Vabbè, una mezza idea, vai. Ok. Allora, una volta era salito sul palco questo tipo qua, a un concerto di Charles Aznavour, e ha detto... Vorrei esibirmi con lui, ma la mia carica istituzionale me lo proibisce. Ma sono sicuro che sarei molto migliore di lui. E meno male che Aznavour non capisce l'italiano, solo gli dava una pappina che lo faceva volare. E... Meno male che Aznavour è morto, e non ha visto questa serata. Lo so, poverino, veramente. Cioè... Ma adesso avete capito? Ah, sì, adesso okay. Ho intuito. Ah, intuito. Ragazzi, solo questo va un attimino fino a domani mattina. Io vi tengo qua fino alle 2 di mattina, è una minaccia. È una minaccia? Fai facile tu. Dovete dirlo. Oh! Sì! Il Berlusconi, esatto. Molto bene. Vuoi fare un'altra? Sì. Ok, va bene. Uno dei tre giudici di Masterchef. Ma dovete indovinare chi è perché... È un po' aiutatico, No, non è complicatissimo, però... Di Masterchef di che edizione? Oddio, non mi ricordo neanche l'anno. Non mi ricordo l'anno, però... Vabbè, ve la faccio facile. Livello easy. Livello easy. Allora, mi è rimasto incastrato questo in gola come palina di catrame e io adesso muoro. Tu vuoi che muoro? Mi stai deludendo. Questo sa di piscio di cane. Secondo me è ancora Berlusconi. No. Dovete dirlo, ragazzi. Ecco, bravo. Visto. Sei stato attento, bravo. Sei stato attento, ma lei è attentissimo. No, io ho visto stasera. Vogliamo fare la terza. Mezz'ora, cioè, ma... No, non so qui, come la mezz'ora? No, è un modo di dire. Ah, ecco. Ok, faccio la terza e poi chiudo, vediamo se è un po' più difficile, non più livello amatoriale. No, ve la fa difficile. Va bene, allora. Veloce, oggi uno di voi va a casa, lo sapete? Sì? E allora, veloci, dai! Cazzo, questo è difficile. È sempre Masterchef. Sì, potrebbe essere chiunque dei giudici. Potrebbe essere un passante anche. No, perché passante quasi tutti i giudici di Masterchef hanno questo tono da sclerato mentale quando... Ma questo qua in particolare è uno che tu hai in testa. Sì, dove sì, è quello andato, che mi viene meglio, ecco. Cracco. Esatto, proprio lui, Cracco. Ma chi è che è... Ah, ma sempre no, dai, ma la serata è giusta. Dai, qualcuno che si vuole esibire qua, accogliamo tutti, siamo molto... Vabbè, vuoi chiudere con una roba potente? Sì, veramente chiudo perché non ho più battute da dire, quindi... Peccato. Ho finito le battute che avevo in serbo, ora dico quelle in croato, poi quelle in montenegrino, quelle in albanese. Posso continuare tutta la sera, eh? Io lo dico, però... Wow. Sì, esatto, con tutto il blocco sovietico anche. Cos'è che manca? La Slovenia... Poi le faccio in dialetto calabrese, in urdu e in turco, va bene? Grazie della vostra presenza. Valerio, per la votazione. Dai, Vale, vieni. Prenditi le tue responsabilità. Andre, vieni anche tu. Buonasera. Lui è Andrea Fadenti, salve. Il titolare. Titolare, tutto mio qua. Mi hanno detto che è una serata bellissima questa. È la più bella di sempre. È una delle più belle. Hanno detto che è una serata bellissima, ma non si riferivano a questa. So che una comica che voleva venire qua a esibirsi se n'è andata a un certo punto. Benissimo, benissimo. Quindi per farvi capire come sta andando la serata, cosa dite voi? Sì, sì. Beh, lasciamo dire a loro come sta andando. Beh, vedo che c'è un bel buco centrale. Quindi forse... Abbiamo pensato di fare subito la coppia Academy tutte e due assieme. Sono... Sì. Beh, chiamalo tu il cagarometro. Cagarometro. Ma sì, cosa sì, devo sì. dire? Io ora, posso ora... Ti ricapito un attimo i punteggi. Vai. In questo momento. Manuele Laghi, meno 12. Urca. Silvia Conti, meno 8. Cos'era meno 8? Ah, Silvia era... Silvia in positivo. Quindi Silvia in positivo. 0. E Romualdo, meno 8. E José? Giuseppe, dobbiamo ancora votarlo. Ah, scusate. Dobbiamo ancora votarlo. Quindi cosa devo dare? Devo dare un segnale 3, al mio 2, 3? 1. 3, 2, 1, sì. 3, 2, 1. Giudice. Abbiamo per fortuna un giudice che valuta. Chi è? Giudice? Ah, Enrichetto. La valletta. Era abbastanza buono, eh. Siamo in più o in meno? Siamo sopra lo zero o sotto lo zero? Siamo... Allora, sopra lo zero perché... Sopra lo zero purtroppo fa ridere. No, no, quello è il problema, proprio non si pone. Diciamo che siamo sul 5. Quindi ad oggi sta, meno 5, sta vincendo Silvia, diciamo. Emanuele Laghi è meno 12. Ah, perché vince chi è in negativo di più. Vabbè, sì, questo locale in effetti ha senso il fatto che vinca chi è più negativo. Però so che mancate ancora voi due. E anche Simone Luzzi, sì, sì. È vero, anche Simone Luzzi. Quindi... Simone Luzzi che... Anche tu, fai un pezzo. Fai un pezzo, sì. Beh, io sono appena arrivato, se magari bevo una roba, intanto vi faccio prima precedere a voi, che mi sembra una gentilezza, mi sembra. Non vorrei poi andare a infossare la serata ancora di più. Beh, quello è il bello. Cercavo di fare come quello. Come già stato è fatto. Chi annuncio? Vuole che vi annunci? Ma no. Ti autoannunci? Sì, va, se no annunci, va, tanto prendo qualcosa. Facciamo finta che non lo sapevi? No. Hai della tua attrezzatura da portare. Come va? Sento che c'è un bel silenzio. È ottimo per una serata comica. Sono proprio quelle cose che spingono i comici a stare ancora sul palco a raccontarvi i cazzi loro. Tornerete, vero? No, no, come? No. Stiamo cercando di non farli tornare. Settimana prossima c'è Sanremo, noi non ci siamo, così non vi creiamo il problema, potete stare a casa a guardare Sanremo, ma dalla settimana dopo, in teoria, ci siamo, se questa sera non ha decretato la chiusura di questo locale. E l'ha decretata. E l'ha decretata, forse. Abbiamo ancora 3 comici per mandare tutto più giù. 3. E ci impegneremo. Vogliamo, sì, io personalmente ci provo. Signore e signori, sì, sì. È con grandissimo piacere che dopo le risate che vi ha fatto fare stasera, e spero siano tante, ne fate tante? No, no, io nessuna. No, no, sono un presentatore pessimo. Chiamo sul palco, chi è già sul palco, Alberto Vitale. Grazie, grazie. Grazie. Allora, intanto partiamo giusto per tranquillizzarvi dicendovi che non sono un comico, quindi non sono un comico professionista, quindi già questo dovrebbe darvi l'andazzo di quello che vi aspettate. Non sono un comico professionista, però faccio comunque questi pezzi comici così di cabaret, così diciamo come hobby, come passatempo. E questo però significa che quando vado in qualche locale, diciamo, riesco a fare serate a un prezzo più basso. Quando quelle poche serate pagate che ci sono, io posso esibirmi a un prezzo più basso di un comico professionista perché ho un altro stipendio e un altro lavoro. Questo vuol dire che io offro un servizio, un prodotto simile a un comico vero, sicuramente di qualità inferiore, ma con un costo inferiore. E questo mi fa pensare che sono un po' il cinese del cabaret, diciamo così. E poi ho pensato che io poi comunque di giorno lavoro quelle 6-7 ore in ufficio, e poi torno, vengo qua e alla fine tra una cosa e l'altra, una serata di cabaret, passo altre 3-4 orette. E quindi niente, lavoro praticamente un 10-11 ore al giorno. E loro ho pensato, forse sono il cinese del cabaret, effettivamente. E niente, poi l'altro giorno, mentre facevo la doccia così, mi sono guardato allo specchio tutto nudo così, e ho visto il cazzo piccolo e ho detto, cacchio, sono davvero il cinese del cabaret, sì sì sì. Vabbè, oggi farò, visto che è la serata così, farò qualche pezzo un po' così casuale. Partirò con delle leggende metropolitane. Aspetta, non so. Negli anni 70 si sparge la voce che ascoltando un disco al contrario si possa sentire la voce del diavolo. Negli anni 2000 in Palestina viene trovato un Vangelo apocrifo contenente una canzone scritta dal diavolo, la quale, letta al contrario, è il testo di Gelato al cioccolato di Pupo. Continuo con le leggende metropolitane che già vedo hanno grande successo. Billy Sullivan era un ragazzino come tanti altri, basso, brufoloso e non ha mai avuto una ragazza. Una sera esce in un locale e incontra una ragazza bellissima, lo porta a casa sua e ci fa l'amore tutta la notte. La mattina dopo si sveglia in una vasca da bagno, completamente ricoperto di sangue. Si guarda e gli manca un rene. Esce dalla vasca da bagno, striscia fino al telefono, chiama il suo miglior amico e dice: oh, ti devo raccontare, ieri ho scopato una gran figa. Qualche anno dopo, Billy Sullivan è un ragazzino come tanti altri, basso, brufoloso e ha avuto solo un'esperienza sessuale in vita. Una sera esce in un locale e incontra una ragazza bellissima, lo porta a casa sua e ci fa l'amore tutta la notte. La mattina dopo si sveglia, si gira e lei non è di fianco a lui nel letto. Lui si alza, va in bagno e trova una scritta nello specchio. Benvenuto nel mondo dell'AIDS e della sifilide e della gonorrea e dell'herpes genitale. Mai uscire con una ragazza ipocondriaca. Poi vede che c'è anche una scritta più piccola in basso. Però c'è anche una buona notizia. Ti ho ridato il rene. Continuiamo con questa saga che sta andando alla grande. Alla grande. Billy Sullivan è un ragazzino come tanti altri. Basso, brufoloso, ma in sé il seme della ribellione. Un giorno sua madre gli dice non passare dal cimitero di notte, è pericoloso. Lui l'attraversa. Ed è lì che cammina di notte tra le tombe, quando vede di fronte a lui una figura nel buio. Arriva, la figura alza la mano, pericolosa, e pa, pa, è sua madre. Quante volte ti ho detto che devi darmi retta? Qualche anno dopo, Billy Sullivan è ancora un ragazzino profiloso, ma ancora in sé il seme del coraggio. Sente dire che guardando allo specchio e pronunciando la parola Candyman 5 volte, appare alle proprie spalle un assassino armato di uncino pronto a ucciderlo. Lui sale nel bagno, apre l'acqua calda al massimo, il vetro si appanna e lui incomincia. Candyman, Candyman, Candyman. Appare qualcosa alle sue spalle. Candyman, la figura diventa sempre più netta. Candyman, la figura alza la mano. Pa, pa, è sua madre. Quante volte ti ho detto di non tenere l'acqua calda se non serve? Billy Sullivan è un ragazzino come tanti altri, basso e brufoloso, e qualche anno dopo ancora in sé il seme del coraggio. Sta camminando per la sua città quando si avvicina al Bates Motel. Lui apre quella porta. Gira al Bates Motel, fa un giro, non c'è nessuno, è un gran caldo, decide di farsi la doccia. Ed è lì, al Norman Bates Motel, che si fa la doccia. E attraverso la tendina di plastica vede avvicinarsi una figura. Una figura a braccia, alzata sempre più vicino. La figura strappa la tendina. Ed è Norman Bates, l'assassino di Psycho. E lui dice, pensavo fosse mia madre. Passiamo alla rubrica animali fantastici, purtroppo morti per sempre. Volevo presentarvi questo. È il camaleonte Enzo Miccio. È un camaleonte vissuto nella preistoria. Come notate, aveva la particolarità che, a differenza degli altri camaleonti che hanno il colore dello sfondo, lui invece assumeva dei colori che stavano bene con lo sfondo, dei colori eleganti. Niente, questo l'ha fatto sì che era facilmente visibile ai predatori e si è estinto. Finita? Adesso la rubrica, forse non tutti sanno che raccoglie le cose più brutte che avevo. E tra l'altro non riesco a leggere, vabbè, lo stesso. Originariamente il doping sportivo era fatto con sostanze naturali. Una volta fu beccato un atleta dopato col caffè. L'hanno beccato perché faceva i salti in lungo, in corto ed è caffeinato. Originariamente Bosco Verticale era il grattacielo più bello del mondo. Però è stato bocciato dagli animalisti. Perché spesso le persone portavano i cani fuori lì sotto per far pipì e dicevano vai, vai, vai, Fuffi, vai a far pipì, vai! Questa era molto brutta, vi ringrazio. Questa l'ho detta, era molto brutta. Ah, questa anche è molto brutta. Originariamente l'edificio più alto del mondo era in Cina, 160 piani. Beh, ora non lo è più, è stato costruito un grattacielo qui a Milano, il più alto del mondo, alto, pensate, 500 piani, ma non si vede perché 499 sono di cantine. Vado avanti. Originariamente Vasco Rossi e Valentino Rossi, ecco questo è un aneddoto vero, Vasco Rossi e Valentino Rossi erano grandi amici, pensate, si erano conosciuti a una cena, tra l'altro c'era anche Paolo Rossi. Beh, una sera a quella cena si presenta Carlo Verdone, non l'hanno fatta entrare perché non aveva il colore giusto. Ma non lo so, potrei fare qualcosa di bello, ma mi dispiacerebbe rovinare quanto fatto finora. Vabbè, farò una poesia seria, una poesia d'amore. Visto che prima Silvia ha fatto poesia, farò una poesia anch'io, giusto per rovinare un po' la sua. La mia è un tema classico di amore e si intitola Lo spazzolino. Io le dissi, ti amo. Lei mi disse, anch'io. Io le dissi, vieni in casa mia stanotte a dormire. Lei disse, va bene. E fu una notte meravigliosa. La mattina dopo mi svegliai, andai in bagno e vidi il suo spazzolino da denti nel mio bicchiere. E pensai, l'avrà dimenticato. Qualche giorno passava e lo spazzolino era sempre lì. Così un giorno la rincontrai e le disse, ma hai dimenticato il tuo spazzolino da me? E lei mi disse, non l'ho dimenticato. L'ho lasciato perché così è più comodo quando vengo da te. E poi fu più comodo portare i suoi vestiti per cambiarsi al mattino. Fu più comodo portare le sue scarpe che si interossero ai suoi vestiti. Fu più comodo portare il suo cibo, vegan, gluten free, no oil, in modo da mangiare tutti e due più sano. Fu più comodo portare le sue pentole perché le mie non sono adatte. Fu più comodo portare le sue foto, i suoi cuscini per abbellire casa. Fu più comodo portare la sua macchina, la Mini, e lasciarla nel mio box, perché una Mini è sicuramente più appetibile di una Renault Twingo. E poi un giorno mi disse che era più comodo se veniva a vivere con me, perché era inutile pagare due affitti. E ora sono 3 anni che siamo sposati, ed io sono felice. Anche se non ho più spazio nell'armadio, perché ci sono solo i suoi vestiti. Non ho più spazio nella scarpiera, perché ci sono solo le sue scarpe. Non ho più le foto dei miei amici, i miei boccali di birra rubati nei locali, ma solo foto di noi due e quadri di gattini. Non ho più il mio cibo e quindi ho già perso 5 kg. Non ho più nemmeno la mia Renault Twingo perché mi hanno rubata la prima sera che l'ho lasciata fuori. Ma ora sono comunque felice. Quando vado nel bagno e vedo il suo spazzolino da denti, un'ondata di ricordi mi invade. E così lo prendo e incomincio a usarlo per pulire le fughe tra le mattonelle. E allora sono davvero felice. Cagometro, scusate, è vero, me lo sono dimenticato. Sì, vi prego di valutare soprattutto, e forse non tutti sanno che, in particolare le battute su Carlo Verdone, Paolo Rossi e Valentino Rossi. Al mio tre facciamo partire il cagometro. 1, 2, 3. Giudice? Mezzo e mezzo qua, ragazzi, non si è capito nulla. Rifacciamo. Rifacciamo, 1, 2, 3. Giudice? Siamo su 6-7. Quindi chi è ancora primo in posizione? Emanuele Laghi. Sempre Emanuele Laghi. Laghi. Emanuele Laghi. Vincitore Emanuele Laghi, fino ad ora. Imbattuto! Cosa facciamo qua? Purtroppo stiamo andando sul finale. Stiamo andando sul finale, ne mancano... Manca la Valletta. Chi è la Valletta? Enrico. Ah, Enrico, ha da fare un pezzo, manca Simone Luzzi. Ma anche quel signore voleva fare un pezzo. Il signore fa così con... Lo convinciamo? Sei pronto, Enrichetto? Tu sei pronto? Dai, no. Puoi solo da contraltare. Sta bene così, dice, come se... Ma è vero che è una comica, non si è voluta esibire. No, non doveva esibirsi stasera. Stasera era venuta a vedere... Era venuta a vedere com'era l'ambiente, ma è scappata dopo un certo comico, mi hanno detto, di cui non faccio nomi. Ma com'era? Una serata di livello attivo. Probabilmente vai. Quel comico l'ho ammazzata. Enrico, ma il mercato, viene da fuori uno, cos'è? Gente che si affaccia in balcone, in corridoio? Ma vieni qua, adesso ti fai vedere, ma vieni qua, ma ti piglio per l'orecchio. Ma ci fai un bel pezzo dei tuoi? Brutti? Dovrei provarne uno nuovo, ma... Vai. Ma quale occasione migliore per fare un salto al buio? Signore e signori, con grande piacere è già qua sul palco un veterano, il George Best della comicità milanese, Enrichetto Veronica. Grazie! Grazie! Benvenuti! Bentornati! A me piace stare vicino al pubblico, per quello prima controllavo quanto cavo ho. A me piace stare proprio vicino al pubblico, sentire l'odore, sapete come si dice? L'odore del sangue, cioè... Cioè, sapete come quei cani che quando sentono le mestruazioni vanno fuori di testa? Cioè, immaginatemi così, con questo mio tartufo rosa da cucciolo, così, sempre a caccia di sangue stantio. Così. Questo era un inizio un po' così. Era un inizio un po' così. Sopra le righe. Ora, mi presentano sempre come una brutta persona. Che, Che scimmietta che sei. No, in realtà io sono un bravo ragazzo. Chi mi conosce bene lo sa che sono davvero un bravo ragazzo. Ho dei bei valori, tersi, puliti. Sono impegnato nel sociale. Tu lo sai, per esempio, questa è una storia vera che vi sto per raccontare. Qualche anno fa ho adottato per qualche mese, per un anno e mezzo, dei gemellini di Chernobyl. Perché all'epoca si usavano, si tenevano questi bambini di Chernobyl per qualche mese. Yuri e Dimitri si chiamavano, di 6 anni, dolcissimi. Yuri era quello più spaventato, no? I cambiamenti, piccolo angelo, ha vissuto le cose terribili. Allora la notte aveva paura e gli lasciavo sempre acceso il fratellino in corridoio. Ora, questo è un classico, no? Classicone su Chernobyl. No, perché Chernobyl è stato in 86, ma si possono fare ancora adesso le battute. Anche i più giovani. Pensate che adesso il mio pezzo, in teoria, dover dire anche in un pubblico della stand-up di oggi, che è giovane, non è la serata giusta. Però in media è un pubblico giovane, si possono fare le battute su Chernobyl, nonostante Chernobyl sia dell'86, non l'hanno vissuto sulla loro pelle. E invece pensate, gli è andata bene. E chissà perché invece Iva Zanicchi e Orietta Berti, qualcuno ha deciso che ciclicamente devono tornare di moda. E quindi se li succhiano anche loro. Cioè, negli anni ci siamo preoccupati per le ondate di Covid, la seconda, la terza, ma tutte ste ondate di Orietta Berti? E a queste sono preoccupanti! Queste sono preoccupati per il mondo e per la società. Ora, vi devo dire una cosa, non so se a voi è capitato, io spero che sia il vostro stesso sentiment, seguitemi. Anche questa è una storia di vita vera a cui tengo molto. Io ogni volta che vado a fare la spesa ormai, scusate le movenze un po' così, un po' queer, ho già parlato del mio orgoglio queer l'ultima volta, allora io c'ho l'orgoglio queer, no? No, perché ho scoperto di essere queer. Perché in realtà una volta queer è bellissimo perché è breve. Cioè, una volta dicevo, ma tu sessualmente, guarda, io sessualmente, sai, mercoledì sera sono ubriaco, cazzo, figa, chi se ne frega, cioè, che era lunga. Invece adesso è queer, molto più semplice, molto più facile. Comunque io ogni volta che vado a fare la spesa all'esse lunga, ma anche in altri supermercati, sono lì che cammino in mezzo alla gente, la musichetta, le luci, io penso, adesso muoio. Adesso mi viene uno di quei colpi che mi stronca e muoio qua davanti allo scaffale degli ammorbidenti per il bucato. E proprio mi immagino tutta la scena, io che muoio stroncato davanti agli ammorbidenti in un mare di urine, feci, perché si muore male l'esse lunga, si muore male. È un povero commesso dell'esse lunga che deve telefonare a mia madre perché ce l'ha nel contratto. Guarda che se muore uno chiami tu la madre e fa: guarda il signore, è successa una tragedia, suo figlio era qua all'esse lunga di Tibaldi, è morto. E mia madre che fa davanti agli ammorbidenti, vero? Sì, come fa a saperlo? Ma perché me lo diceva da anni? Mamma, io ho un'ansia da prestazione quando sceglie gli ammorbidenti, che prima o poi ci muoio, c'è la povero figlio mio. E poi aggiunge, già che ci siamo, ma i suoi punti nella tessera a chi vanno? Non è che magari li potete dare a me, tipo pensioni di reversibilità, perché anche in quei frangetti drammatici mia madre giustamente pensa al suo tornaconto della spesa, no? Povera, grande donna mia madre, grande donna, vai scimmietta, ci vuole qua, ci vuole! Ora! Basta! Ma figa, sei stato fuori 3/4 d'ora, arrivi adesso a rompere i coglioni! Ma che briocina che sei! Allora, cambia il discorso. Io ragazzi ho questa roba che, cioè, quando cambio discorso dici, com'è che cambia discorso? Lo dico, cambia il discorso. Ora, non dovete credere a certe poetiche, a certe trame menzogniere, mendaci della contemporaneità. Ora, io conosco, ho conosciuto tantissimi ragazzi, magari ce n'è anche qualcuno in sala, mi spiace, però figli di famiglie adottive. Ora, hanno esistenze in media difficili, sono complessati e hanno un rapporto conflittuale spesso con la famiglia adottiva. Perché ve lo dico? Perché in realtà nei film porno figli adottivi con la madre ha sempre un bel rapporto e c'è quasi sempre il lieto fine. Non è così nella verità. Il porno è mendace. I garzoni che consegnano le pizze non sono ragazzi fortunati. È gente che ha una bassissima autostima e non ha un'emancipazione economica. Il porno è importante, è un prodotto pop fondamentale, ma è mendace, non dovete credergli. Ora, già che siamo in argomento, però, approfondiamo certe categorie porno ostracizzate. Ostracizzato, lo sai cosa vuol dire? Ostacolate. Ostacolato, deriva da ostrica, bravo. Tu come ti chiami? Sei mestruata? Ma infatti non mi attizi. Allora, perché poi uno quando dice divago un attimo, comincia a annusare le mestruazioni, in prima fila è la fine, No, io ero un grande comico di base. Poi sta roba che annuso le mestruazioni mi ha stroncato, No, fidatevi! Cioè, la mia carriera è stroncata per tante cose, ma per questa soprattutto, Per questa soprattutto. Hanno fatto una bella serata, Zeliger, il Veronica, ma guarda, poi Veronica è andato anche bene, ma l'hanno trovato che ero vistava nel bagno delle donne, cercando di... Vabbè, dai, ma immaginatelo, sono scene vere. Cioè, la scena comicità milanese, io sono conosciuto per questo. Stavo parlando di categorie porno, baby? Ostracizzate! Ora, tra le categorie porno ostracizzate, ce ne sono certe che proprio non si conoscono. Allora, c'è la categoria porno dei dialoghi brutti. Ora, Antonio, mio caro amico, è bello perché io parlo sempre di vita vera. Antonio, mio caro amico, che non è in sala stasera, mi spiace, lui è un feticista dei dialoghi brutti, che è una categoria porno di cui lui praticamente nel porno le scene di sesso le manda avanti. Perché lui si eccita e si masturba solo durante i dialoghi. È una cosa... Antonio, perché non sei qua stasera? Cioè, perché lui si eccita per le cose scritte, dette male. Ti saresti ammazzato di seghe stasera. E invece no, non fa il mondano. Poi c'è una categoria porno che non è ostracizzata, è stata addirittura demonizzata. E qua mi incendio. Atti sessuali con gli animali, ok? Giusti, non giusti? Perché poi lo sapete che a un certo punto io... Dopo tot minuti parlo di sesso con gli animali, Con me una tassa, c'è la Tari e poi c'è Veronica che parla di sesso con gli animali. Ora, chissà perché il sesso con gli animali è stato declassato o è stato elevato quasi alla stregua della pedofilia e infatti è stato bandito dall'internet in chiaro, vero? Quanto i problemi adesso per trovare... quel film, adesso, molti di più, lo so. Ora, perché vi parlo di questo? Perché naturalmente poi si trascende sempre nell'orrido e quando si trascende nell'orrido si parla della mia famiglia e sono sempre storie vere. Daniele, anche lui non è in sala, poverino, poi vi spiegherò perché, è un mio cugino in secondo grado, lui ha sempre avuto questa passione per gli animali, per il sesso con gli animali. Bah, libero di farlo, secondo me. Lui ha passato l'adolescenza a masturbarsi, fin qua nulla di strano, chi non l'ha fatto, chi non lo fa anche oggi, chi non lo sta facendo in questo momento, a parte medico. Perché mai dovrei avere una mano in tasca, ragazzi? Mentre faccio un pezzo di teatro immortale. No, sto scherzando. Comunque, tornando, però perché poi divago, leggermente divago. Daniele, il mio cugino... Lui ha passato l'adolescenza a masturbarsi, però guardando il commissario Rex in televisione. E ora sì, scado nelle battute da prima serata a Rete 4, parlando di masturbazione e cecità. È vero, no, è vero. Quando ci si masturba troppo, si diventa Daniele, mio cugino, è una storia triste. Prego di non ridere, abbattere le mani. Lui adesso è cieco. È cieco, ma è felice però. Perché è un pastore tedesco vero, tutto per lui. Ora, voglio salutarvi in questa serata eroica, ricordandovi quello che vi ho detto all'inizio. Cosa avevo detto all'inizio? Non ve lo ricordate? Ricomincio il pezzo. Ciao piccolini, bentornati. Ma secondo voi vi ricordo il pezzo? No. Vi ricordo io cosa mi avete cosa avevo detto. Io sono una brava persona. Sono un bravo ragazzo, dei belli ideali, puri, puliti, tersi. E infatti voglio lasciarvi con un inno alla salute. Dovete amare il vostro corpo. Dovete pensare alla salute, come me. Il vostro corpo è un tempio. Il mio corpo è un tempio! Che poi è la stessa cosa che ho detto settimana scorsa al mio radiologo, quando sono andato a fare un'ecografia al tratto anorettale per giustificare quel crocifisso che ci ha trovato dentro. Adesso... Sai, dottore, il mio corpo è un tempio. Non sono un iconoclasta. Ci tenevo che non... Che poi la battuta poteva andare bene, no? Cioè, una battuta che parla di crocifissi infilati nel culo funziona. No, uno deve tirar fuori l'iconoclastia. Cioè. E lì... Dici, come se ne esce dall'iconoclastia? Così, raga, ho finito. Non lo so, Harry, forse eri fuori posto in questa serata. Come Obama, come Kobe Bryant. Non lo so. Lasciamo decidere il pubblico, però io li ho sentiti ridere due o tre volte. Quindi, anche un paio di applausi. Potrebbe essere superfluo questo. Siano... Proviamo, di cui non ricordo comunque neanche il nome. Come si chiama sta roba qua? Come si chiama? Cagarometro, cagometro, merdometro. Sono idee di Valerio Erò. Tra l'altro, che è già scomparso. Ringraziamo Valerio Erò per il suo grande contributo anche questa sera. Io sì, ho in tasca una mezza canna, sono ho smesso di fumare per venire da te. Il cane con le mestruazioni, l'erba, come il cane dei finanzieri. Se tu avessi anche un Tampax usato, guarda, te lo becco subito. Sai che ho anche quello, ma non è mio. Davvero, questa roba di Tampax usati ho un po' migliorato la serata, però. Prova a puntare su quello per il voto. Ripunta su quello per il voto, dai. È il momento di quelli che ci baciamo. Mi sembra che tu mi volessi cacciare mezzo. Ci ho pensato, però ho detto potrebbe finire la serata. Ma perché lì secondo me c'ha sempre avuto sta pulsione? No, ma lo capisco. Io non riesco. Anzi, faccio mezzo metro indietro che non vorrei mai che, bene, che su quelle cose. Dai, vogliamo lanciare. C'abbiamo l'ultimo. Sono 3 ore e parli. 3, 2, 1. Cosa dice signor Nod? Gli applausi, fate gli applausi col pubblico, si capisce più. Vuol dire che, che non allora, sei negativo. Io non posso dire niente. Sei attorno alla linea dello zero. Coordiniamo, prima gli applausi e poi il bu. Facciamo 3-2-1, facciamo partire gli eventuali applausi. Proviamo, 3-2-1. Ci sono. Ahimè ci sono. Proviamo i bu. Bu, 3-2-1. Secondo me è positivo. Positivo. 4. Purtroppo sei stato fatto fuori. 4. Non sei degno dell'X Factor. Allora, vogliamo anche dire che allora siamo quasi alla fine ed il fulcro di questa serata era quella, stancare il pubblico per il prossimo comico. Dove ci giochiamo tutto, cioè se la serata è una merda è tutto nelle mani del pezzo dell'ultimo comico che non sentirà una grande responsabilità. Sta tremando nella sua lingua che è il marchigiano. Come si fa a tremare in marchigiano? Ce lo spiegherà lui. Mi signore e signori, non vogliamo... esagerare. Sei carico? È un giovane ragazzo, è un ragazzo che pur essendo giovane, io mi sento di chiamarlo un piccolo veterano del Vietnam, un sopravvissuto, Falkland, ok? Quindi è l'ultimo comico. Potremmo caricare il pubblico in modo che abbia le grandi aspettative su signori, di lui. Cioè, in modo è l'ultimo, ha aspettato due ore, è più stanco di voi, quindi davvero fategli sentire tutto il vostro calore per questo eroe moderno. Il nuovo Brignano. Ma per la somiglianza più che per altro, io dico il nome, tu dici il cognome. Un grande applauso a Simone Luzzi! Due stronzi per voi questa sera. Come stiamo? Vedo un sacco di facce, soprattutto la tua. Da... Potevo pensarci meglio prima di uscire stasera. Stai qua, dico, ma hanno detto che era una cosa, è successa tutt'altra cosa. Che serata strana che si è prospettata stasera, eh? Vero? È il tipo di serata dove provi una droga nuova e sei l'unico che non lo sa. Questo è il tipo di serata qua stasera, è il tipo di serata dove Pacciani si divertirebbe un sacco. Questa è la serata. Mamma mia, un sacco di facce di gente che tipo i matrimoni che all'inizio si rompe i coglioni e fa ormai stiamo qua, proviamo a trovare il divertente in questa faccenda. Voi? Non sono ancora riuscito a trovarlo, però. Ma infatti non sarò io a darglielo. Anche perché c'è questa, cioè, in genere qua è pieno non di persone, di tavoli, in genere sta tipo le persone sedute per terra, e poi c'è questo zoccolo di cavallo stasera come il gran consiglio delle risorse umane che mi giudicate. Mi sento un po' strano, capisco Enrico Veronica che faceva su e giù come un Titanic che ancora non sapeva che era già affondato, come questa serata. Quindi cominciamo, siamo pronti a fare festa? Allora le donne ripetano ai ai. No, no, che cazzo, no, tu hai fatto bene, gli altri hai fatto male. Ai? Ok, gli uomini ripetano, siamo contro questa narrazione patriarcale dei ruoli di genere dove l'uomo è predatore, donna preda, quindi diciamo noi i balli di gruppo. Bravo, ammessa facevi favilla immagino quando facevi salmi, bravissimo. A proposito di Matteo Messina Denaro. No, non l'ho detto per niente, però volevo parlare di questa cosa. Ci avete fatto caso come si è scambiata completamente la copertura mediatrica fra lui e Gabriel Garco? Adesso nessuno parla di lui come se fosse nascosto e ora sappiamo pure come fa la spesa Matteo Messina Denaro. Che cazzo è successo? Ho visto questo articolo che diceva uno sguardo al figlio segreto di Matteo Messina Denaro. È in latitanza. Tutto quello che fa è segreto. Non penso che è andato al battesimo a farsi vedere agli altri mentre mangiava prosciutto e melone. Sì, nella mia testa Matteo Messina Denaro è pugliese. Cioè, te lo immagini però al battesimo del figlio segreto che sta là e uno fa... Tu, c'è una faccia vista. No, te sbaglio, te sbaglio. Dai, in televisione. No, oh, limbo, si apre una botola e scompare per 6 mesi. Ah. Che cazzo, non è certo che è segreto il figlio, cazzo discorso è... Vabbè, ricominciamo da capo. Facciamo un applauso tutti insieme, facciamo un applauso. Alduce. No, cazzo fate. Fatemi finire prima di essere d'accordo. A proposito di Duce. Stavo... sì, lo so, non so prendere i discorsi alla leggera, devo andare diretto. Sono uscito con una ragazza nera di recente da Tinder, direte voi se dice de colore. Vi dico direttamente il colore, era nera. E prima siamo usciti, no? Siamo usciti a... No, era tipo terra di Siena, no? Era un colore. E tipo siamo usciti a Porta Venezia, che saprete essere il quartiere più progressista di Milano, forse Italia, forse del mondo. Il giardino più progressista di Porta Venezia, il quartiere più progressista forse d'Italia, forse del mondo, che paradossalmente si chiamava Giardini Indro Montanelli. E io stavo là con questa ragazza nera, dico, oddio, gli errori del passato, eccoci qua di nuovo, mannaggia. E però andava tutto bene, si rideva, si scherzava, è Tinder, sappiamo come funziona, da alcune facce da quando ho preso l'argomento può essere che lo sapete purtroppo bene, stasera è una serata Tinder per alcuni di voi, silenzio me l'ha confermato, e praticamente tipo si ride, si scherza e stavamo là, no? E lei mi fa tipo, sai, ti dicevo, si ferma, mi guarda dritto negli occhi come io sto guardando a te adesso, sta zitta 10 minuti, secondi, troppo, 10 minuti, effettivamente troppo per sta zitti, mi sarei andato via, no, 10 secondi, e fa tipo, certo che no, 10 minuti è troppo, e tipo mi guarda e fa tipo, viva il Duce! Ma che cazzo dici? Tu? Cazzo autogol che ti sei fatta? Poi, ci penso, faccio, chiaramente per mettermi alla prova. Ora siamo tutti pallidi stasera, quindi vi codificherò quello che ha visto lei. Quello che ha visto lei è stato bianco, biondo, occhi azzurri, basso, ma comunque mezzo ariano. E quindi la risposta che tipo si aspettava era tipo, ehi, sì! Quindi ho fatto tipo, no, niente Duce, no, niente, no, sorella, no. E, l'ho fatto. E, appena se n'è andata mi ha dato un messaggio al mio amico fascista, io ho fatto, non ti piacerà come comincia la storia, ma il finale è un sacco. Ora... Cambio microfono e questo è per gli strumenti e io non lo suono. Dicevo, questa battuta mi è andata di traverso di recente perché ho letto un articolo di Vice, ora siamo a Milano, sapete tutti cos'è Vice. Chi sa cos'è Vice faccia come tutti quelli che leggono Vice. Perfetto, no vabbè, è una testata giornalistica affermata, no? Tipo una delle migliori d'Italia, difatti quando è scoppiata la guerra in Ucraina sono stati i primi a riportare gli outfit di Zelensky e praticamente, no? Stavo là, ho letto questo articolo che diceva non bisogna sessualizzare le etnie, due punti a capo, in grosso è razzista. Ora, io... Cioè, no, nel senso, no? Io non lo so se è giusto o sbagliato. Quello che so io è che non decido io cosa mi alza il cazzo. Siamo tutti d'accordo su sto faccenda, no? Cioè, non è una cosa ragionata. Vorrei poter decidere io cosa mi eccita, perché mi piacciono le ragazze basse e magre, direte voi. Beh, a molti. Io sono basso e magro. Il mio basso e magro è una nana rachitica malnutrita. Io praticamente mi faccio le seghe sulla pubblicità di Emergency. Queste persone hanno bisogno di te. Agisci! Sta per agire, sta per agire! Io sono povero, non ho mai dato un euro. C'è il cartonato, tra l'altro, là di Emergency. Tutte merde stasera. Avete fatto la tessera e avete sputato sulla tessera con questa risata. Maledetti. Ah! Comunque, no vabbè, però il concetto mi sembra valido, no? Tipo, non è, i fetish non sono ragionati, no? Io sarò, cioè, non è che, tipo, oh, Pitagora, no! Siamo tutti d'accordo? Non è che, tipo, vedo una nera e faccio un ragionamento razzista e faccio, questa troia c'ha il ritmo nel sangue, certo che no! Non è che vedo un'asiatica, come fai i compiti di matematica questo? Certo che no! È una cosa che non decido, è successo qualcosa quando era piccolo, mi si è mischiato con la sfera sessuale, voilà, ora vedo una nera e mi piace. Ma io, ora sarò strano io, a me io ho sempre ritenuto il discriminante vero del sesso lo scopare bene. Ok, troppo silenzio sta affermazione, aspettavo di buon... Ehi, c'hai ragione, qua molte persone insoddisfatte, ok. Cioè, mettiamo caso, no? Secondo me quando uno scopa bene è tutto accettabile. Tipo, metti caso, mo spara la cassa, no? Esplode. Tocca chiamare un tecnico, uno che la cambia, la aggiusta, no? E arriva questa persona estremamente competente, no? Che va là, c'ha quella cintura di attrezzi che tutti facciamo finta di sapere come si chiami quando ce lo chiedono e fa, dammi la brugola, eh? No, quella è una francesina, come potevo sbagliarmi, è una francesina. E tipo, gliele passi queste cose. E questo aggiusta la cassa e fa un ottimo lavoro. Ma mentre aggiusta la cassa sta lì e dice, parola mia. Queste casse che esplodono è tutta colpa degli ebrei. Ora, se lo aggiusta bene, penso che la reazione di tutti sarebbe, ma che persona bislacca. Però ha fatto il suo lavoro, cioè ha fatto quello che doveva, no? No, non mi spiego bene. Allora, cambiamo metafora. Credo che tutto quello che si fa a letto sia inaccettabile a livello di società, è per questo che si fa a camere chiuse. Di nuovo, troppo silenzio, qualcuno qua piace Parco Lambro, però vabbè, non giudico. Però, tipo, capito, cioè, ci sono coppie stasera? Ok, per alzata di mano così che vi parlo veramente in profondità. Tu e? No, deve essere presente entrambe le persone. Siete, ok, al tavolo, tutti e quattro, quindi scambisti. Ok, no, siete due coppie diverse, sono allo stesso tavolo, ok. Quindi perfettamente in regola con lo scambismo, però vabbè, questo è un altro discorso. Però, capito, voi due che mi state davanti, è mai successo? Hai alzato la mano tu e potevi far finta che era tua sorella, se vi assomigliate pure. Vi assomigliate. No, è mai successo durante il... l'atto, no, schifo, che tu dicessi, sei la mia troia? In genere quelli che dicono no è perché è lei che lo dice a lui, quindi occhio a come risponde. Applauso al pegging. No, quindi succede, no? È una cosa che succede e non dà fastidio, anzi capace che un po' piace. Però immagina dirlo in qualunque altro contesto. Tipo la prima cena con i suoi genitori. Che sta là e fa tipo, veramente buone queste bruschette, vostra figlia la mia troia. Cosa credi che ti risponde il padre? Ah sì? E che ne pensi dei tortellini di mia moglie? Capito? Certo, certo che te le devi tenere certe cose. Non lo so. Ci avete presente che hanno fatto gli alpini a Rimini? Cambiamo discorso. Vedete che ha fatto gli alpini a Rimini? Alla Dunata, l'anno scorso, 2 anni fa ormai, è molto vecchia questa battuta. Però ve la faccio uguale perché è carina. Che è successo a Rimini? Voce? Molestie, tante molestie, hai visto che roba? Sembrava quasi che sono dei montanari di merda che non scendono mai in mezzo alle persone. Però pare che Berlusconi abbia letto il giornale il giorno dopo e abbia fatto tante molestie, porca puttana, bravi, è Berlusconi che l'ha detto. praticamente no, ho visto sta cosa. Parentesi, chi è che ci ha avuto la testa quadra, l'idea brillante di fare la donata agli alpini al mare? Questi stronzi saranno stati confusissimi, si scesi dall'autobus tipo ma quel lago è enorme. Franz, yeah? Vieni qua. Afrodisiaco. Poi è successo quello che è successo. Ha messo sui grauti. Non lo so a cazzo fa l'alpini. Però ho visto sta cosa e ho cercato di chiedere consiglio alle mie amiche. No, le mie amiche femmine che mi aiutano sempre. Spesso quando non glielo chiedo. Però questo è un altro discorso. Allora, i consigli non vanno dati quando non si chiedono. Siamo tutti d'accordo? Mia madre spesso e volentieri mentre crescevo mi diceva: quando esci di casa mettiti il portafoglio in una tasca dove te lo senti bene, così che se te lo rubano te ne accorgi subito. Io vorrei sempre rispondere tipo poi che ci faccio con questo tempo extra? Un minuto e vai, che cazzo non succede? Serve un cazzo. Cioè, comunque il portafoglio è stato rubato, me ne sono accorto subito e sto male prima, è solo peggio. Magari potessi non accorgermene mai, però me ne accorgerò prima. Perché quando non, cioè, ti arriva i consigli che non li chiedi, spesso la mela non casca sotto all'albero, siamo d'accordo. L'altra volta stavo al McDonald's, mi arriva questo e mi fa: se ti vuoi suicidare ti devi è vero, ma devi tagliarti le vene in verticale e non in orizzontale, così muori sicuro. E io stavo, lo so che è vero, come, ci hai provato? Allora, se dici è vero e non sei vivo, non è vero, cioè nel senso... Io l'ho fatto in orizzontale e ho fallito come... Vedi, non c'è risposta giusta che io possa dare, dico mannaggia mi dispiace che sei vivo... Se dico bene, me sono felice che ti sei tagliato. Non vince nessuno con questa cosa. Me sto zitto. Vado avanti. Vedi? Stiamo tanto ridendo adesso, Emanuele. No, niente applauso alla presunta morte di Emanuele. Stronzi, non lo fate. No, però. Tipo... Allora penso che il COVID ha provato. I cinesi muoiono spesso. Però. No, vabbè, dicevo, mi ha detto suicidare, devi tagliare bene in verticale, così muori sicuro, no? Io stavo al McDonald's, dico, io avevo chiesto un McFlurry, no? Dico, cazzo vuoi? Non te l'ho chiesto. Però questa volta l'ho chiesto alle mie amiche, consigli per poter essere meno identificabile come molestatore, no? Ma sti consigli di merda, pare che me l'hai apposta per farmi arrestare. Siete presenti quei consigli di merda? Tre me ne ha dati e tre ve ne dico, poi me levo dai coglioni. Ma ha detto, prima cosa, se vedi che una ragazza sta camminando davanti a te la sera, fai in modo da sorpassarla così che lei capisca che non la stai seguendo. E direte voi, sì, ma se lei comincia a correre, ormai ho cominciato, la rincorro, la sorpasso, faccio, che fatica fate, sta tranquillo. Certo che no, non funziona così. La seconda cosa che mi hanno detto è stata: se la notte stai sempre camminando dietro una ragazza, sarebbe buono segnalare la tua presenza. Capito? Manco te la devo dire la battuta, che fa ride. Perché vi ricordo che nello scenario sono le 3 di notte. Che ne so, magari tu stasera... un po' troppo ti ho parlato, scusa. Però tipo, stai tornando a casa e manco c'hai paura. Però tipo a 100 metri dietro quello che senti è... Te giri e ci sto io. Ciao, volevo solo dire che io sto qua, ok? Non mi sembra a caso. La terza e ultima cosa che mi hanno detto è quella che mi ha fatto capire che avevano preso sta cosa da una lista online e me l'aveva schiaffata in faccia. Sì, più o meno, in chat. Mi hanno detto, se vedi che una situazione si fa pericolosa, intervieni. E sto là, dico, io? Stronza, io sono 1,70 m per 60 kg. Uè, che ci stupro tutti e due! Posso provare a fare del mio meglio, posso provare a darti una mano. Ho fatto giù 10 anni. Mano sul cuore, ho fatto schifo 10 anni di fila. 10 anni, l'unica volta che sono arrivato secondo a una gara di judo, era una gara di beneficenza, quelli bravi non erano venuti, e al primo classificato gli mancava una gamba, che è importante a judo. Quindi se dovessi darvi io un consiglio stasera, prima di levarmi definitivamente dai coglioni, che mi sono stato pure un po' troppo sul palco, sarebbe questo. Donne, stasera quando tornate a casa, o in generale quando tornate a casa, e come sovente succede, vi accerchia un gruppo di alpini e vi dicono le cose vostre che dicono loro, tipo, sul cappello, che non so, a cazzo dice gli alpini, no? E intorno, e fa tipo, uga uga, quello che fanno loro, no? E tipo, sta là, e tu sei, oh mio Dio, mi stanno per molestare. Non è proprio la mia serata. E tipo non c'è nessuno lì intorno, no? Non c'è nessuno? Ma vedete, me! Mi dispiace. Grazie, ho finito, sono Simone Luzzi. Andiamo sul palco, presentatori. Andrea Fadenti, Alberto Vitale e quella merda di Valerio Erò. E la valletta. Simone Luzzi. E la valletta Enrico Veronica. Signori, che bello. Sembriamo la banda della 104 stasera. Sì, ma non ci siamo, non ci siamo, Valerio. Io lo sapevo che Luzzi mi rovinava la serata, non bastardo. Non ci siamo, non ci siamo. Tu arrivi per i grandi saluti, pezzo di merda. No, tutta la sera fuori a farti i cazzi tuoi, quando c'è da salutare sali sul palco a farti bene. Io ero a lavorare, pezzo di merda. A lavorare! Per mantenere anche te. Vuoi beccare l'umiliazione del cagometro, Valerio? Il cagometro! Ma qua rovina la serata, Vai, fai partire te, 1, 2, 3. Vabbè, hai capito cosa ti ho chiesto? No, sì. Buono, dai, va bene, la bestemmia ci voleva. Ma perché il bastardo ha fatto ridere? Ha rovinato tutto. Sei sempre più fuori. Ha fatto ridere, ero fuori, non lo so. Ha fatto ridere? Ma sì, sì, sì. È stata una brutta... Ma da te la coltellata! Tutti abbiamo rovinato. Ci sono state due belle esibizioni sul finale. 3, 2, 1, cagarometro per Luzzi! No! C'è una merda, Luzzi! Questi rischiano di tornare la prossima volta. Sì, c'è proprio il rischio. Prossima volta ti metto per primo, così non mi rovini la serata. Ho una voglia di tornare, vorrebbe che ricominciamo. Va bene, dall'inizio, chi ci sta? Altre due ore, alzate la mano. Vogliamo nominarlo come vincitore, vogliamo dirlo. Guarda, gente che ha la sindrome di Stoccolma che applaude, no? Quant'era, perché ormai Simone... non ne può più, è talmente dentro che non ce la fa uscire. Ma la cosa più bella sono gli sguardi sconcertati, anche compassionevoli, delle altre persone, quelle sane di mente. Delle fidanzate soprattutto, che sono venute qui, perché le ha portate il fidanzato, che probabilmente è un malato di mente e si diverte. Sono delle fidanzate. Guarda, lei poveretto non ne può più, è già stata interpellata. Si sono lasciati tra due battute fa. Figo della Madonna. Quante ne trova lui? Occhio al filo che ti spa. Sei carina, ma lui è un gran bel pezzo di. Fatti vedere quanto bello sei. Ben messo, io voglio fare il volgare. Comunque, attenzione! Attenzione! Attenzione! Colpo di scena, signore! Fermate il televoto! È stata lei a portare lui! Ma siete insieme da tanto voi due? Non vuole male? Non vi lascerete, non la lascerai dopo stasera! Ma come la fa un'altra così? Che tra l'altro anche lei l'ha sotto, secondo me! Non mi fate scadere in volgarità, ragazzi! Ma cosa... Abbiamo ricominciato! Sì. Mi scaldo, ragazzi! La strada quest'ora diventa una pazza! E adesso il secondo pezzo di Enrico Veronica! Leggermente omofobo, ma lo farà! Enrico! E chiudi... Comunque, rendetevi felice! Domanda! Tornerete a questa serata, sì o no? No! Brava! C'è stato qualche sì, chi è il bastardo? Guarda, non ti picchio perché sei grosso. Perché ce l'ha grosso. Volete, andate a succhiargli il cazzo a sto punto. Fate allora, voi. Allora, io vado dalle palle e dalla cappella. Delicatissimo. Ah. Oh, ma ti finisce la grande baby. Ti porta la ragazza. Non hai pagato, ti ciucciano il cazzo. Ma questo lo racconti a Bart per 30 anni. Pensa che ieri sera volevo stare a casa e sono andato a quel locale, come mi è cambiata... E pensa che io volevo stare a casa a guardare Juve, che cazzo c'è, boh, non lo so. Juve-Lazio, sono pure le partite, questo è un momento funari, vuoi dire qualcosa sullo stato della città, delle buche, ragazzi, le buche! Basta, basta così, secondo me. Le buche di cosa? Che cazzo ne so? Io ti dico buca, va avanti tu, no? No, raga, arriviamo un attimo. Sì, sì. Vai, Enrico, vai, vai! Guarda, possiamo fare così. È arrivato il momento di far salire lui! Possiamo fare così, però il direttivo qua, gli Avengers, devono... Aspetta, facciamo una riunione, Allora, non ci sentono, no, vieni qua che non ci sentono. Non ci sente il microfono. Ma era voluta, era una gag, porco Giuda. Ah. Anche la minima, che non era che era neanche sta grande gag, tra l'altro. Però quantomeno sembrava avessimo costruito... Vieni anche te, vieni anche te. Mi avevano chiesto di cantare la canzone sulla cacca. Tu non stai benissimo stasera, vero? No, sto proprio di merda. Si vede, non sei formissima. Ragazzi, la canzone della cacca... Però, aspetta, ah! Signori, signori! Che confusione! Cos'è il mercato? Aspetta, accompagnata dai monghi! Un attimo! Volevo fare solo una premessa. Chi vuole alzarsi e giustamente non se la sente più è libero di andare. Qui magari andiamo avanti un'altra 10 minuti a fare un... Cosa stiamo facendo? Stiamo facendo la canzone della cacca. Signori, io non so cosa sia, mi vergogno anche un po' di fare parte. Oh, dacci il ritmo. Tu senti il tempo? Sì. Cioè tu mi stai dicendo che... Scusa. Chi è che canta però? Io. E prendi un microfono, cosa fai? Stai lì. Signore e signori, chiude la serata. Shh. Il vincitore della serata con un meno 12, Manuele Laghi. Ti posso fare qualcosa? Tu patatu patatu patatu patatu patatu patatu patatu patatu patatu patatu patatu patatu. Sento qualche cosa che mi spinge nella pancia. Forse è un ippopotamo o forse il re di Francia. Un gran bastimento nell'argine si stacca. Forse, forse, forse è la mia cacca. Signore e signori, straordinario finale in linea con la serata. È difficile avere parole per dire. Guardate, sono seduti, ma non perché ne vogliono ancora. Aspetta, mi ricordo l'autore. Voglio cantare una canzone anch'io. Vai! Sì! Accompagnamento di Bonghi? No. Preferisci a cappella? A cappella. Si intitola Duro, duro, duro, duro. L'Accademia d'Ardimento si conclude col lamento di studenti dal di dentro. La mia vita era al balletto, volteggiando sulle punte. Inciapa e mi ruppi il setto, le scarpette erano unte. La carriera mi è stroncata, cassa chiusa in un solaio. E sfregiato a mano armata, crivella il mio calzolaio. Deve essere sempre così il finale. Sempre. Aspetta, dammi qui. Vai. Yesterday. Yesterday. Na na na na. Yesterday. Vai, hey Jude. Hey Jude. Senza staccare. Cioè, senza staccare. È un medley, Hey Jude. How are you? Eleanor Rigby. Ah! Grazie! Chiediamo i soldi. Ah, signori! Una serata a cui non dovrete tornare si replicherà venerdì prossimo 10 con noi due che dividiamo mezz'ora. Mezz'ora io, mezz'ora lui. Pensate che schifo mezz'ora io, mezz'ora lui, esatto, che possiamo fare. Esatto, ma cosa importante, adesso passerà un omino con un cappello, ci dovete mettere i soldi perché noi siamo persone che stanno poco bene, lo vedete? Abbiamo bisogno di cure, mettete dei soldi per favore. Sto ragazzo non vuol più essere cinese, aiutatelo. Si vuole operare, aiutatelo. Buona serata a tutti e viva la merda! E viva la merda! Siamo